Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sembrava una finale scritta, no? Scritta nelle stelle, Real Madrid-Barcellona, finale Coppa Campione. Invece è ancora possibile, per carità, ma è tutta da conquistare. E se sarà ardua, secondo me almeno, anche per il Real Madrid contro il Bayern, perché insomma si è visto di che spessore sia il Bayern, e soprattutto non si può non tenere conto del richiamo che il fatto di giocare la finale all'Allianz Arena, cioè sul proprio campo di Monaco, di Baviera, insomma, eserciterà sui giocatori tedeschi. Più complicata ancora a questo punto è l'accesso del Barcellona alla finale tedesca. Perché? Ma perché c'è ancora meno recupero per i giocatori del Barça per provare a rimettersi dopo la faticata di ieri sera sull'acqua di Stamford Bridge. In che senso? Sabato Bayern e C'è, dunque, hanno giocato il Real martedì e il Barcellona ieri, che era mercoledì. Giocheranno la settimana prossima sfalsati, quindi il Barcellona martedì e il Real mercoledì. Il Barcellona avrà ancora un giorno in meno. Sabato sera si scanneranno tra di loro, perché non c'è dubbio che Barcellona-Real sia il massimo, no, dal punto di vista della tensione e della fatica fisica, ma psicologica, mentale, e quindi avranno tre soli giorni di tempo per provare a preparare la rimonta, che partendo dallo 0-1 non è assolutamente mai facile. Non solo, loro si scannano nel confronto diretto nel Camp Nou, mentre invece Bayern e Chelsea giocano praticamente pro forma in campionato, perché il Bayern è fuori dopo la sconfitta nel confronto diretto col Dortmund, e il Chelsea sì, sta cercando questo piazzamento Champions, ma a questo punto è ovvio che punterà tutto sulla partita di martedì. Quindi insomma, addirittura una finale Bayern-Chelsea a questo punto non è da escludere. Non so, tra le tante mail, lettere arrivate in mattinata, c'è una firmata Andrea Cittadini che è già ultimativa. La finale sarà Bayern-Chelsea e vincerà il Bayern alla faccia delle spagnole, considerate imbattibili. Basta non farli uscire nella loro metà campo e affrontarle senza paura. Vabbè, e poi c'è un saluto personale molto gradito che ricambio di cuore. Ma hanno scritto davvero in tanti, ha scritto con opinioni variegate, pari De Mossini, sto sfogliando, Giuliano Orsini, Antonio Pini, Matteo Servente, che scrive da Memphis, negli Stati Uniti. Matteo Servente scrive: a causa del fuso orario mi sono dovuto ritagliare un paio d'ore per riuscire a vedere il Barcellona all'ora di pranzo, ma nonostante la sconfitta non mi sono pentito. Stefano Tiberio da Padova, Giovanni Guglielmetti da Milano, insomma, e altri ancora. Ci sono già ascoltatori collegati che vogliono esprimere la loro opinione, intervenire a loro volta. Sono i benvenuti, anche perché tra non molto poi cambieremo argomento e andremo sempre sulla Coppa Campioni, sulla Champions League, ma nel senso della trasformazione che Platini ha in animo di applicare con l'abolizione della Europa League e una grande Champions League che sarebbe nelle intenzioni e nei voti di molti presidenti, a cominciare per esempio da De Laurentiis. Mi raggiungerà Marco Bellinazzi, questione di minuti. Stefano ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, sulla partita di ieri sera io l'ho visto e ho visto, a mio avviso, un grande Barcellona, ha giocato molto accorto, perché sapeva che poteva perdere anche con più di un gol, perché il campo di ieri era molto pesante per giocatori come Messi e i suoi compagni. Però la cosa che mi ha stupito è stata la telecronaca della Rai, che sembrava che il Barcellona quasi non ci fosse, che quasi stava ormai andando a una sconfitta di larghe proporzioni. Mi domando come mai ci siano personaggi che a mio avviso abbastanza improvvisati nel fare le telecronache televisive. Ma una volta la radio era molto più bella ascoltare le partite. Sì. Grazie all'ascolto per radio. Grazie a lei. Beh, improvvisati non direi, perché mi sembrava di lungo corso, se è per quello. E poi non era l'opinione di Gasperini questa, certamente, se mai del telecronista. Però io penso questo, che lo vedo anche da molti commenti che arrivano. È chiaro che più una squadra sale in alto, più assume quest'aura quasi di imbattibilità, no? Nel senso che Barcellona non perdeva in Europa da tempo immemorabile. più una squadra comincia a prendersi le etichette, ma non è che se le prenda, gliele danno le etichette di miglior squadra del mondo, miglior squadra di tutti i tempi, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che quando cade fa sensazione, quindi capisco che sia stata un tantino, come dire, euforizzata addirittura la vittoria del Chelsea. Il Chelsea ha giocato non all'italiana di più, no? Sarebbe stato felice Brera della partita che ieri sera il Chelsea ha giocato. Dal suo punto di vista ha giocato una partita impeccabile, assolutamente impeccabile, ineccepibile, perfetta, e si è giovato insomma, anche e soprattutto degli errori che il Barcellona ha commesso sotto porta, oltre che di un errore capitale di Messi, di cui magari parliamo più avanti. Marco è in linea da Siracusa, buongiorno. Buongiorno. Io premesso che il Barcellona è la squadra più forte al mondo in questo momento, però ieri secondo me è stato un po' presuntuoso, non si vince senza tirare in porta, togliendo la traversa di Sanchez e l'occasione di Fabregas, non ho visto questi grandi tiri in porta, forse meno applausi, io penso che il Real Madrid possa fare risultato a Barcellona nella gara. Lo penso anch'io, Marco. Infatti sono avendo un impegno sabato sera alle 20, sono abbastanza felice di averlo, perché non sento un granché, no, per il Barcellona sabato. Penso che il Real, che il campionato comunque lo vincerebbe con pieno merito, penso che, a parte che gli basta anche il pari al Camp Nou, penso che sarà quello. Lei dice che, lei cita due occasioni, beh insomma io ci metterei, lei dice una di Fabregas, due di Fabregas almeno, una di Pedro gigantesca, il palo finale oltre alla traversa iniziale di Sanchez, cioè giocando al 60-70%, il colpo di testa di Puyol, su cui quello non arriva alla deviazione decisiva per un istante. Il Barcellona ci ha abituato troppo bene, secondo me, da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è vero che oggi al 60-70% è esattamente come era contro il Milan, cioè non è il miglior Barcellona, ma è sempre capace di creare quel numero che ho detto di palle gol. Poi se Messi commette un errore decisivo, cioè di tentare un dribbling e perderlo a cavallo quasi sulla linea di metà campo, Messi ha propiziato 100 vittorie del Barcellona, ieri sera ha propiziato una sconfitta, può capitare. E guai a chi dice che erano tutti troppo alti, per esempio non c'era Dani Alves eccetera in quell'occasione, come fa a esserci? Dani Alves è andato per seguire l'azione, anche quando la palla è a Messi è in banca, no? In 99 casi su 100, e quindi tutti vanno come andavano. Mi è tornato in mente, vabbè ci sarebbe il traffico, ve la racconto dopo, quella di Berzotto dei mondiali dell'82 che mi è venuto in mente come flash ieri sera proprio vedendo Messi perdere quel pallone. Vi dicevo di questo nanetto del grande Berzotto riferito ai mondiali dell'82, perché mi è venuto in mente ieri sera? Perché Messi, a parte che Messi un attimo prima aveva avuto quella divaricazione, era scivolato e era rimasto giù un attimo, e quindi c'era il sospetto che potesse essersi infortunato, avesse avuto un guaio muscolare. Cosa fa? Prende all'azione successiva, prende la palla e fa una specie di autotest, e cioè vediamo un po' se le gambe sono intatte. E cosa va a fare? Va a fare una cosa che non fa mai, cioè dribbla 2-3 metri oltre la linea di metà campo, che è un posto dove non si dribbla mai, soprattutto contro una squadra che fa bene il contropiede e che ha Drogba davanti. Gli altri, i compagni, fidandosi di Messi, perché dar la palla a lui è come metterla alla banca, non di Spagna, alla banca di, non so, è arrivato Marco Bellinazzo, buongiorno Marco, in che banca? In qualche forziere svizzero. Ecco, bravissimo, è come mettere in qualche forziere svizzero 999 volte su 1000, e invece Messi la perde. Cosa hanno fatto gli altri? Gli altri hanno seguito tutti l'azione accompagnando in avanti, come fanno sempre quando ha la palla il banchiere. E mi è tornato in mente Berzot, perché questo era una cosa che succedeva, ma raccontato Berzot, succedeva in Spagna nell'82, quando la palla l'aveva Bruno Conti, che era in uno stato di grazia allora paragonabile a quello di Messi di questo periodo. Quando quando Bruno Conti arretrava a prendere la palla, Cabrini e Tardelli si dovevano fiondare. Non è che potevano, no, si dovevano fiondare. E se poi Bruno perdeva la palla, ci avrebbe pensato qualcun altro, gli Oriali, i Marini o Scirea, grande, insomma, a tamponare. Ieri sera non ha tamponato ed è andata così. Allora, bentornato a Marco Bellinazzo. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Torniamo ovviamente più tardi, magari con qualche vostro intervento interpolato sul Barcellona, sul Real, su questi argomenti calcistici che sono indubbiamente più affascinanti, ma questi di cui ogni tanto trattiamo e quasi sempre il giovedì, hanno ben altra rilevanza, se vogliamo. Io partirei da questa riforma proposta da Platini, o pensata da Platini, per arrivare a una grande Champions League che abolisca l'altro torneo continentale. Sì, la sproporzione tra Champions League ed Europa League è diventata ormai insostenibile. Basti pensare che la Champions League vale 5 volte di più dell'Europa League, 1 miliardo più o meno di introiti contro 200 milioni. E quindi anche l'appeal che hanno le due competizioni per le squadre, per i club, lo sappiamo bene noi in Italia, è totalmente diverso. Pensa Gigi che basta qualche dato come quello relativo alle vittorie nelle singole partite. Il premio riconosciuto dalla Champions League di 800.000 euro contro i 140.000 euro di una vittoria in Europa League. Sei volte tanto. Ancora di più, è evidente questa sproporzione. Ma lo stesso pareggio, per esempio, vale un pareggio in Champions League 400.000 euro, 70.000 euro in Europa League. Il rapporto è sempre quasi di 6 volte tanto. Esattamente. E il premio finale della Champions League, cioè la squadra che vince, oltre ovviamente a tutti i soldi che ha già incamerato, la semplice vittoria vale 9 milioni di euro in Champions League contro i 3 milioni di euro che vale l'Europa League. Qui si riduce a 3, ma sono 6 milioni di differenza. Beh. Questa sproporzione ha fatto sì, insomma, che dalle parti della UEFA qualcuno, in particolare Platini, abbia iniziato a ragionare su come allargare il bacino d'utenza dei tifosi, incamerare più risorse e distribuirle meglio e soprattutto conservarle alla UEFA, perché diciamo l'anticipazione che aveva dato un settimanale, un giornale tedesco su questo progetto di Platini ufficialmente ne ha parlato non in maniera così ampia, è legata al fatto che i grandi club europei riuniti nell'ECA, che è un po' una sorta di Confindustria del calcio europeo, stavano pensando appunto di creare una propria competizione continentale in alternativa alla UEFA, anche per sfuggire ai rigidi paletti del fair play finanziario. Quanto vale la Champions League e l'Europa League per la UEFA? Vale circa 300 milioni, cioè 300 milioni incamerati dalla UEFA, giustificati come costi legati appunto all'organizzazione delle partite, ai servizi, alle trattative, perché è la UEFA che tratta poi i diritti TV per le competizioni internazionali. In pratica per la Champions League si incassa 1 miliardo, 250 milioni li trattiene l'UEFA, quindi circa il 25%, e lo stesso in proporzione per l'Europa League. Un gruzzoletto, 300 milioni, che va alla UEFA e che grandi club invece vorrebbero dividersi. Platini ha cercato allora di far passare questo progetto di una Champions League a 64 squadre anziché le 32 per innanzitutto tentare di aumentare quindi il ricavo legato appunto alle due competizioni, quindi 1,2 miliardi, ma magari l'obiettivo è quello di portarlo anche a 1,5 miliardi, e non far sottrarre alla UEFA queste importanti risorse che servono per tenere in piedi tutto il sistema di governo del calcio europeo. La partita è aperta anche perché poi a Platini servono i voti anche delle federazioni europee. Lui ha già fatto una mini riforma nel momento in cui ha fatto sì che i campioni dei campionati esteri, diciamo legati all'Europa dell'Est, quelli meno prestigiosi, potessero ambire perlomeno a partecipare ai gruppi, no, della Champions League. E tenterà in questo modo di allargare ulteriormente il bacino dei propri voti esatto, perché allarghi la competizione e allarghi il consenso. Questo è quello che il governo del calcio ha fatto in tutti questi anni, sia in ambito di UEFA che di FIFA. Ti faccio una prima obiezione, non a te, a Platini se ce l'avessi qua, che è questa. Non sarebbe il caso di far procedere, di far precedere questa riforma, o perlomeno di renderla contemporanea, a una riduzione del numero delle squadre dei campionati. È evidente, nel senso che è evidente che è così, quello è l'obiettivo, nel senso che questa è una riforma che potrebbe partire dal 2016, perché fino al 2015 i diritti TV della Champions League e dell'Europa League sono stati già venduti, e quindi prima di quel momento non si può. Non è possibile, stiamo parlando di tre anni. Mm-hmm. Dopodiché è chiaro che nel momento in cui si aumenta il numero di partite in Europa, si debbano contestualmente ridurre quelle dei campionati nazionali. Il progetto per il momento dovrebbe essere strutturato in questo modo: anziché nella fase a gironi 8 gironi da 4 squadre, dovrebbero essere 16 gironi da 4 squadre. L'idea per aumentare il numero di partite e quindi avere più soldi è quella di creare una seconda fase a gironi, un po' come era all'inizio della Champions League. Sì. Questo ovviamente comporterebbe la necessità di ridurre drasticamente le partite, le squadre delle massime serie nazionali, oppure anziché fare una seconda fase a gironi, partire dai sedicesimi di finale anziché gli ottavi di finale, quindi avere di fatto due partite in più nella fase dei playoff. Si sta studiando anche con l'ECA una soluzione che garantisca più introiti per i club, ma non renda povera la UEFA, tra virgolette, certo. E vedremo quello che succederà. Sì, sarà sempre più Champions League, e cioè quella a gironi, e sempre meno Coppa Campioni, che è quella a eliminazione diretta. C'è poco da fare. Quindi, dal punto di vista emozionale e qualitativo, rassegniamoci che la prospettiva è quella, no? Di questi gironi con i materassi, inevitabilmente. Però è anche vero che il materasso significa ampliare la partecipazione e dare la possibilità a tante più nazioni, a tanti più club di competere, di provarci, e in fondo la Poel di Nicosia è bello, no? Che sbuchi agli ottavi e addirittura ai quarti di finale. Assolutamente, però in semifinale ci arrivano sempre i più ricchi il maggior fatturato, questo mi sembra quasi inevitabile. Senti, a proposito dei più ricchi, prima dell'intervallo, ci resta un minutino e mezzo, Forbes ha pubblicato stamane, è appena uscita questa classifica. Io poi, insomma, vanno prese sempre un po' con le pinze queste classifiche, bisognerebbe capire i criteri. In ogni caso, il Manchester United con 2,2 milioni di dollari è la prima squadra, il Real Madrid è seconda con 1,8 miliardi, il Barcellona è il terzo con 1,3 miliardi, come valore stimato. Il Manchester è il primo soprattutto perché ha una platea di tifosi oltre 300 milioni in tutto il mondo, che rende il marchio un'espressione di ricchezza enorme, che fa sì che appunto preceda anche Real e fatturato, e Barcellona, che invece sono più avanti per quanto riguarda il fatturato. C'è anche una simpatica classifica legata ai calciatori più ricchi. Il più ricco è David Beckham, che guadagna 46 milioni di dollari più per quello che fa fuori dal campo, evidentemente, che quello che fa in campo. Poi c'è Cristiano Ronaldo con 42, Messi con 39 e via dicendo. È un valore di marchio, quindi questo Ma al valore di fatturato, in altre alla potenzialità economica, al marchio, all'appeal che ha la singola squadra nel mondo. Diciamo che c'è meno dribbling e c'è anche molto dopo barba in queste classifiche legate ai soggetti, no? ai singoli. Le italiane nella classifica di Forbes? La prima è il Milan con 989 mila dollari, quindi meno di 1 miliardo di dollari. Poi segue la Juve con 591, l'Inter con 490, la Roma 354, il Napoli è ventesimo con 283. Esaustiva mi sembra questa classifica, insomma. Sì. Forbes è una griff, no? Poi si tratta di vedere sempre quali sono i criteri che vengono seguiti. Questa era la prima parte di questa conversazione. Adesso facciamo un intervallo, poi torniamo con un altro argomento, sempre di calcio, stavolta più che di calcio e quattrini, è di calcio e quattrini, ma è di calcio e diritto, in particolare riguarda il calcio italiano molto, ma molto da vicino, e sempre con i vostri interventi in diretta. Torniamo in onda in compagnia di Marco Bellinazzo. Dunque, mi pare di aver letto da qualche parte che la Bundesliga ha rinnovato un contratto con Sky semplicemente sontuoso, e devo dire che mentre i contratti per il nostro calcio, insomma, un minimo di perplessità me lo suscitano, il calcio in Germania sta andando così bene da tutti i punti di vista che che mi sembra ci sia una logica superiore, ecco. Sì, l'accordo chiuso con Sky, che ha gareggiato con Deutsche Telekom per acquisire i diritti TV dei prossimi quattro campionati, quindi da 2013 a 2017, della Bundesliga ma anche della Serie B tedesca, varrà alle casse in generale del calcio tedesco appunto 4 miliardi di euro. La Bundesliga incasserà 2,5 miliardi in particolare, fanno più o meno 600 milioni all'anno. La cosa interessante è questa: rispetto alla Serie A italiana sono ancora un po' lontani, perché la Serie A italiana incassa un miliardo, sì. Però ci sono questi due piccoli numeri da dare. Innanzitutto c'è stato un incremento rispetto al precedente contratto del 52%, ecco. Questo manifesta l'appeal, la crescita, che ha il calcio crescente, tedesco, certo. E soprattutto c'è un piccolo particolare: che il calcio tedesco offre circa 80 partite meno, 74 per la precisione, perché ci sono 18 squadre anziché, certo, 20, quindi certo, sono 306 le partite complessive contro 380. Con questo piccolo particolare aggiungo, mi piace parlare di particolari perché sì, sembrano irrilevanti questi numeri, invece danno il senso globale, no, di quello che sta succedendo nel calcio mondiale. Allora, queste 18 squadre che giocano 306 partite, 74 in meno nel campionato italiano, garantiscono un'affluenza totale di 13 milioni di spettatori, con una media di 42.000 spettatori. In Italia, con 380 partite, si arriva a una affluenza totale di 8,9 milioni di spettatori e una media di 23.000 spettatori. Okay, siamo quasi al doppio in Germania, indubbiamente. Evidentemente riescono a coniugare quella che è la bellezza dell'evento sportivo vissuto dal vivo, con il reddito legato ai diritti TV, insomma. Evidentemente è una formula migliore alla nostra, è un campionato più credibile, le società sono più sane, l'abbiamo detto tante volte, ma insomma, ripetita Juventus in questo caso qua. Gianni da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie. Intervenivo con la partita del Barcellona ieri sera. Sì. Nel caso dello scrittore che diceva prima che il Barcellona ha avuto poche occasioni, a me sembra che quattro occasioni nette le abbia sbagliate, perché due con Sanchez, certo, una con Busquets dopo il palo, e Fabregas sino clamorose. Un intervento abbastanza decisivo di Cech su Puyol, sì, di testa, e poi, come diceva lei, l'errore raro di Messi, che metteva l'unico contropiede del Chelsea che giocava in casa e segna, e approfitta subito l'occasione e segna cinicamente. Penso che questo Barcellona gli manchi un attaccante come Villa per queste partite importantissime, sia certo, come finale, perché è un attaccante. Gli manca un attaccante come Villa e gli manca altrettanto un grande difensore come Abidal, no? E direi che psicologicamente manca di più Abidal. Il Barcellona quest'anno ha perso dei pezzi, perché Abidal c'è un grosso punto interrogativo sulla sua carriera. Villa l'ha perso a dicembre, prima della finale intercontinentale, e si sapeva che avrebbe dovuto farne a meno per l'intera stagione. Quindi è ovvio che anche di questo va tenuto conto. Dopodiché, anche nelle serate non di scarsa vena, giocando fuori casa, arriva quelle 6-7 volte circa davanti al portiere, ma non basta, perché poi quando arrivi lì, su 6-7 volte, due almeno la palla la devi mettere dentro. Non sto dicendo una grande percentuale, su occasioni così facili il 33% sarebbe il minimo sindacale. Se non lo fa, se non ci riesci, paghi, e il Barcellona ha ieri sera giustamente pagato. Marco, arriviamo al match clou di oggi, che è la Lega nel senso della Lega Calcio, i suoi problemi, ma soprattutto questa guerra preventiva che sta facendo nei confronti dell'istituto della responsabilità oggettiva e della sua applicazione per lo scandalo prossimo venturo dal punto di vista delle sentenze, ma per lo scandalo già in corso da tanto tempo, e che ha avuto altrettanto preventivamente la reazione durissima del presidente del CONI. Il presidente del CONI e il presidente della FGC Giancarlo Abete, che hanno chiesto altrettanto preventivamente alle 8 società che hanno convocato, hanno chiesto di mettere al punto all'ordine del giorno della riunione di domani la revisione della responsabilità oggettiva. Parliamo di Atalanta, Bologna, Cesena, Genoa, Lecce, Novara, Parma e Siena, ma la prima squadra che ha chiesto una revisione delle responsabilità oggettive è stata la Lazio, il presidente Claudio Lotito. Certo. Lotito. È stato messo, ripeto, all'ordine del giorno una possibile modifica di questo principio, che invece Abete e Petrucci hanno ribadito essere il principio cardine dell'ordinamento sportivo, ed è sembrato appunto un atto, come dire, per mettere le mani avanti e sfuggire in qualche modo alle penalizzazioni che arriveranno nella prossima estate. Anche perché mi pare, ma qui siamo, cioè, fino adesso abbiamo parlato di fatti, adesso arriviamo alle suggestioni o alle sensazioni. Mi pare che più l'inchiesta va avanti e più le società rischino di essere coinvolte direttamente e quindi di pagare un prezzo a quel punto molto pesante. Sì, c'è in alcuni casi, quello che sta emergendo, una sorta di responsabilità diretta, no, dei club, quando i dirigenti in un modo o nell'altro, anche per interposta persona, hanno cercato di influire sui risultati. Altro discorso è quello invece della responsabilità oggettiva, che determinerebbe una penalizzazione anche in società che non hanno cercato direttamente con i propri dirigenti di influire sui risultati, ma si sono ritrovati, diciamo, calciatori tesserati che invece, magari per propri fini, perché volevano scommettere e lucrare, certo, su queste scommesse, hanno tentato, diciamo, delle combine. In questi casi viene riconosciuto un principio, appunto quello della responsabilità oggettiva, che significa sostanzialmente la società deve vigilare, deve sapere quello che succede nello spogliatoio e di conseguenza va punita nel caso, appunto, in cui vengano poi accertate le responsabilità dei propri tesserati. Ora, Marco, secondo me, ma certamente non solo secondo me, il principio della responsabilità oggettiva è ampiamente criticabile, nel senso che non è certamente un sistema perfetto. Mi ricordo un po' la famosa battuta di Churchill, no? Che la democrazia è la forma meno infelice di governare, o qualcosa del genere. Insomma, la battuta era, grosso modo, era questa. Non è certamente un modello dal punto di vista del diritto la responsabilità oggettiva, però è anche vero che non si è trovato ancora nulla di meglio per reprimere. B, soprattutto, si può parlare di abolirla o di revisionarla in momenti di pace, ma questo con le scommesse in corso, con l'inchiesta in corso, è un momento di guerra. Questo. È chiaro, Gigi, che se per la nostra Costituzione i padri costituenti hanno previsto un meccanismo di revisione, di correzione, nulla è intangibile. Certo. C'è però un problema di opportunità legato al momento storico, e cioè non si può cambiare le carte in tavola mentre i processi stanno per cominciare, in alcuni casi sono cominciati, e semmai se ne può parlare in un secondo momento, cioè quando le penalizzazioni saranno state assegnate, ciascuno avrà pagato in base alle colpe che saranno riconosciute dalla giustizia sportiva. A quel punto si può, certo, intavolare un discorso, perché non è, tra virgolette, giusto che paghino le società che in alcuni casi sono state anche parti lese di queste combine. C'è una legge in Italia da una decina d'anni, un decreto legislativo 231, che punisce le società dal punto di vista amministrativo e di fatto penale, anche se in Italia la responsabilità penale è personale, quando diciamo dei propri dirigenti, dei propri dipendenti commettono dei reati nell'interesse e a vantaggio della società. Certo. Ecco, quello è un sistema che potrebbe essere magari mutuato dal mondo del calcio per mitigare quantomeno la responsabilità oggettiva. Già oggi esistono delle attenuanti in alcuni casi, quando per esempio vengono esposti striscioni con diciamo scritte razziste, vengono cantati cori razzisti, la società può, diciamo, lanciando dei messaggi che chiariscano che quello non si può fare, che è un illecito, la società può evitare, insomma, sì, una parte delle, può alleggerire la propria posizione, sì, è un attenuante, viene già riconosciuta. Certo. Però magari mutuando questo sistema della 231 si può in qualche modo, diciamo, far sì che la società, se dimostra che ha fatto tutto il possibile, che ha adottato magari dei meccanismi, delle procedure di controllo interno per evitare la commissione di questi illeciti sportivi, e se dimostra in ogni caso che non ha avuto un vantaggio diretto da quel, certo, tipo di combine, potrebbe, diciamo, scansarla ed evitare penalizzazioni. Questo sì, se ne può parlare, ripeto, a settembre, a ottobre, l'anno prossimo, quando se ne può parlare in tempo di pace. Questi processi saranno finiti. Assolutamente. Marco, io credo che noi nelle due prossime settimane ci sentiremo più facilmente di mercoledì che non di giovedì, per via che saranno due giovedì di dopo campionato. Adesso entriamo in questo vortice, e quindi per i numerosi cultori di questa materia e per i frequentatori del tuo blog sul Sole 24 Ore, l'appuntamento in linea di massima al prossimo mercoledì. Grazie. Grazie a te, Gigi. Torniamo prima di Nicola Filippone, torniamo con questa intervista rilasciata stamane da Montari ad Alberto Costa del Corriere della Sera. Domanda: come sono stati i suoi ultimi mesi ad Appiano Gentile? Risposta: loro continuavano a fare come volevano, io continuavo a dare il massimo, me ne hanno fatte di tutti i colori, non ci si comporta così tra esseri umani. Lei continua a dire loro chi? Branca, per favore scrive il suo nome, mi raccomando. E cosa le ha fatto Branca? Guardi, io sono uno che rispetto il bambino e l'anziano. Lui invece, quando entrava in spogliatoio, voleva che mi inchinassi quasi fosse il mio Dio. Amico, a me lo stipendio lo paga Moratti, come a te, siano tutti e due suoi dipendenti. La verità è che nessuno dei giocatori lo sopporta, io l'ho inquadrato subito. Sa perché ha fatto mandare via Oriali? No, perché Oriali era una persona per bene. Lui ha capito che se Oriali fosse rimasto avrebbe fatto il bene della società. Non è possibile però che tra lei e Branca non sia successo niente. Dica la verità, lui andava in giro a dire che sono una brutta persona, che facevo casino, però dopo 3 anni non ce la facevo più. Così, prima di partire per la Coppa d'Africa, ho detto a quello che sta sempre insieme a lui, come si chiama? Ausilio? Sì, proprio lui. Ho detto ad Ausilio di riferire a Branca che la pazienza era finita e che non si permettesse più di sparlare di me in pubblico. Leggerino, mi pare, no? Dopodiché, un pochino più avanti, c'è un ultimo passo. Domanda: che vuol dire che all'Inter ci sono gruppi e gruppetti? Io dell'Inter non voglio più parlare. Rispetto 2 o 3 persone: il presidente, il team manager e il cuoco di Appiano, oltre ai miei ex compagni e a tutti i tifosi. Nicolino Filippone, il 19 aprile. Sembra ieri. 19 aprile 1942. A San Siro, a dispetto della guerra e dei suoi drammi, è una domenica di festa. C'è il tutto esaurito per la nazionale che batte 4-0 in amichevole la Spagna allenata dal leggendario Ricardo Zamora. Pozzo schiera i campioni del mondo Foni, Rava, Andreolo, Biavati e Piola e alcuni ragazzi emergenti come i veneziani Loic e Valentino Mazzola, entrambi a segno insieme a Piola e a Ferraris II. Dopo il 4-0 alla Spagna, la guerra riprenderà a dettare l'agenda e l'attività delle rappresentative nazionali si arresterà a lungo. Trascorreranno 3 anni e 7 mesi prima che la nazionale, l'11 novembre 1945, torni di nuovo in campo a Zurigo contro la Svizzera. Nicola Filippone mi ha allegato anche il tabellino di quella partita e sinceramente mi ha messo un pochino i brividi, perché legandolo anche alla data, non solo perché ci sono i nomi di Valentino Mazzola, di Loic, insomma, poi di alcuni dei caduti di Superga, allora inizio carriera o quasi, ma perché stiamo parlando del 19 aprile 42, quindi sono 2 anni che l'Italia è in guerra, sta per incrudelire ancora di più, e tra l'altro l'abito un tedesco che si chiamava Bowens, non so perché, ma l'idea che... Lo sapevo perché l'annuario del calcio italiano un po' lo conosco, ma insomma l'idea che il 19 aprile del 42 si giocasse una partita ufficiale a Milano di nazionali in piena guerra tra Italia e Spagna, arbitrata da un tedesco, non so perché, ma non mi sta dentro, ecco. Giorgio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo fare una domanda relativamente alla Supercoppa europea. Come mai viene data così poca importanza a una competizione che mette di fronte 2 squadre che hanno vinto le maggiori competizioni europee, e la vincitrice della Supercoppa, secondo me, è la vera campionessa d'Europa? Mi piacerebbe che fosse considerata di più questa manifestazione, dove oltretutto vanno anche squadre che prima partecipano alla Champions League e poi magari vincono la Supercoppa europea. Giorgio, non, io A non glielo so dire, B immagino che... le dico cosa vale per me valgono i trofei radicati, per me valgono i grandi tornei che hanno tradizioni, cioè vale Wimbledon, non vale Dubai, non so come dire. Poi, per carità, se Federer piuttosto che Djokovic vincono una grande finale a Dubai contro uno dei loro 3 o 4 che adesso spadroneggiano, diventa un grande torneo, però non può avere Dubai l'appeal di Wimbledon o del Roland Garros o di Flushing Meadows, e quindi credo che la risposta vera sia questa. Io penso invece che tutti questi trofei siano degli orpelli che sono stati aggiunti negli anni dal marketing ad ogni costo per arricchire ulteriormente le bacheche delle squadre più grandi. Quindi vede proprio che siamo su posizioni completamente antitetiche. Io sentirei Di Matteo a questo punto, perché ieri sera il Barça ha sbagliato tutto quello che poteva, però è anche vero che Di Matteo, giocando, ripeto, che più all'italiano non si può, ma comunque ha fatto il massimo, ha ottenuto il massimo dei risultati possibili con una squadra insomma francamente inferiore. Di Matteo. Beh, io ho visto tante partite che ha giocato Barcellona contro il Milan, contro il Real Madrid, e giocano tutti un po' in questa maniera qui, perché comunque loro hanno un possesso palla che fa parte della loro cultura ed è difficile controbattere, quindi bisogna secondo me sfruttare le qualità della tua squadra e cercare di segnare con quelle poche occasioni che loro ti danno. Beh, cambia un po' la dinamica, perché comunque sarà la seconda partita e noi ci abbiamo un piccolo vantaggio. Credo che sia ancora un 50-50, perché siamo a metà tempo e c'è un'altra partita da giocare. Adesso è 50-50, prima era un po' meno, caro Di Matteo, adesso è certamente 50-50, ma almeno sono d'accordo su questo. Savio, è caduta la linea, Giancarlo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì. Giusto una notazione, io sentivo ieri dopo insomma, i commenti dopo la partita Barcellona-Chelsea e ho sentito delle critiche sul Barcellona. Allora io quello che voglio dire è che io non sono tifoso interista, ma quello che io ho visto ieri è una squadra che, anche giocando come dicono non in maniera perfetta, è comunque a mio parere la più grande squadra di tutti i tempi. Io ho visto fare 50 passaggi di seguito con una precisione, una perfezione. Se il calcio deve essere una cosa bella, ecco, il Barcellona faccia quello che vuole, vinca, perda, a me insomma sì, interessa poco. No, ma certo, devo certo dire che è una proprio una goduria. Vale anche per me, sa, Giancarlo. Quello che lei ha detto, però quello che dico è quello che aggiungo io. Intanto non ho criticato il Barcellona perché non sarebbe logico, non avrebbe senso per una sconfitta, ma è che ci ha abituati talmente bene che questo calcio che ha esibito anche ieri sera è un calcio che viaggia più lentamente di quello a cui ci ha abituati. Non so, Xavi, il professor Xavi, che è un grande direttore d'orchestra, ieri sera aveva la bacchetta leggermente rallentata, ma ce l'ha da un periodo a questa parte, tant'è vero che gioca abbastanza di rado, Guardiola lo centellina, eccetera. Manca una punta come Viglia, che magari di gol non ne faceva tantissimi, però apriva più spazi. Adesso Messi deve andarci di persona col grimaldello, no? E quindi insomma ci sono un po' di problemi che rendono più meno divertente il Barcellona rispetto a com'era. Mi pare che il tempo sia scaduto, quindi grazie a Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.